tanto. Sì, beh, ma è la prima volta che siete alla Critical Wine o ci siete già stati altre edizioni? A Milano è la prima volta, ho fatto due edizioni a Verona, ho fatto Cremona, Genova e Bologna. Come ti sembra quella di quest'anno qui a Leoncavallo? Ma finora mi sembra va bene. La gente c'è, il vino piace e siamo contenti. Come può cambiare l'esistente la Critical Wine, insomma, tutto il modo di produrre delle corporazioni agrochimiche, insomma, che stanno portando una devastazione ambientale, insomma, è una risposta che si articolerà, si svilupperà ulteriormente in futuro? Ma penso che bisogna rispettare la tradizione e tornare alle origini per avere una qualità ma anche una genuinità del prodotto e soprattutto avere un prodotto che sia il prodotto locale e non che si distingua da un prodotto all'altro. E quindi usare poco barrique, noi usiamo un 10-15% di barrique solamente proprio per non globalizzare il gusto del vino. Vuoi fare un pensiero alle popolazioni di Val di Susa che stanno opponendo resistenza all'inizio dei lavori della TAV, insomma, che porterà la devastazione ambientale nei loro territori? È un discorso un po' complesso che non sono tanto a corrente. C'è chi è contro, c'è che non saprei proprio. Ma fanno bene a cercare di, insomma, di bloccare l'inizio di questi lavori che, insomma, nonostante il dissenso di 60.000 abitanti di quella valle, cercano di farlo comunque, di imporlo dall'alto, nonostante ci fossero dei scienziati, delle persone competenti che parlano dei rischi, insomma, c'è l'uranio, c'è l'amianto, ci sono dei problemi. Certamente ci sono dei problemi ambientali, l'ambiente va rispettato, ma non so quanto serve o quanto non serve. Questo non sono, competente, però l'impatto ambientale bisognerebbe rispettarlo nel limite del possibile. Ok, grazie. Prego.